Ci hanno indagato nel filone che va alla ricerca dei mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. È un ufficiale dei carabinieri in pensione, Quintino Spella, 90 anni, ex capocentro del SISD di Padova. L'inchiesta che ha portato alla sua iscrizione per il reato di depistaggio è seguita dalla Procura Generale di Bologna, che nell'ottobre 2017 ha avocato l'indagine per cui la Procura Ordinaria aveva chiesto l'archiviazione. Ma la notizia emerge dal processo a carico dell'ex NAR Gilberto Cavallini, accusato di concorso nel massacro che costò la vita a 85 persone. Spella, infatti, nell'udienza del 13 marzo 2019 avrebbe dovuto essere ascoltato come testimone, ma al suo posto in aula è arrivato il suo legale, l'avvocato di Padova Luisa Granata, che ha presentato un certificato medico che attesta le precarie condizioni di salute dell'anziano ufficiale. Inoltre ha aggiunto che il suo assistito, se convocato di nuovo, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere perché indagato in procedimento connesso, cioè l'indagine sui mandanti. Il presidente della Corte d'Assise di Bologna, Michele Leoni, vista la situazione, ha deciso, al termine di una breve camera di consiglio, di non chiamare più Spella sul banco dei testimoni, ma rimane il motivo per cui è indagato. A fare il suo nome era stato, sempre davanti agli inquirenti della Procura Generale, Giovanni Tamburino, il giudice istruttore che a Padova nel 1974 aveva indagato sul progetto eversivo della Rosa dei Venti. Dopo essersi spogliato del fascicolo per decisione della Cassazione che ne aveva ordinato il trasferimento a Roma, dove già si indagava sul tentato golpe borghese del dicembre 1970, era passato di incarico diventando giudice di sorveglianza. In questa veste, nel luglio del 1980, poche settimane prima della strage di Bologna, aveva accettato di incontrare un detenuto di destra, Luigi Presilio Vettore, che gli aveva dato due informazioni. La prima riguarda un progetto di attentato alla vita di un magistrato di Treviso, Giancarlo Stiz, il primo a imboccare la pista nera per la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, e Tamburino ne informò l'autorità giudiziaria. La seconda, invece, era una voce raccolta da Presilio Vettore in carcere, un altro detenuto che risultò essere il neofascista Roberto Rinani e che smentì la circostanza, gli aveva parlato di un evento terroristico clamoroso che sarebbe accaduto di lì a breve e di cui avrebbero parlato tutti i giornali del mondo. Al giudice Tamburino, tuttavia, vennero fornite informazioni vaghe e si rivolse prima di tutto ai carabinieri di Padova. Come ha ricordato in aula a Bologna, deponendo lo scorso 30 gennaio, ne parlò con il comandante del gruppo carabinieri, il colonnello Azzolini, che gli suggerì di passare l'informazione ai servizi segreti. Tamburino non conosceva nessuno in quell'ambiente e dall'arma gli venne fatto il nome del futuro generale Quintino Sella, che all'epoca era ancora capitano maggiore e che era a capo del SIST di Padova. Il magistrato seguì l'indicazione e poi non seppe che fine fecero le informazioni che fornì. Quando poi ci fu lo scoppio a Bologna, si rivolse direttamente all'autorità giudiziaria. Queste affermazioni Tamburino, prima di formularle davanti alla Corte d'Assise di Bologna, le aveva già riferite ai magistrati della Procura Generale, che lo scorso 25 gennaio, in una caserma della Guardia di Finanza di Padova, avevano sentito Spella come testimone, il quale prima aveva negato l'interlocuzione del luglio 1980 e poi, di fronte a documenti mostratigli dagli inquirenti, aveva dichiarato di non ricordare. In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, a quel punto le domande dell'ex ufficiale del SIST si sono interrotte ed è stato indagato per depistaggio. Ma chi è Quintino Spella? Il suo nome, negli atti giudiziari che ricostruiscono queste vicende, non si incontra quasi per nulla. Fa eccezione una ricostruzione che chiama in causa un neofascista, Aldo Del Re, frequentatore del gruppo di Ordine Nuovo Veneto e strettamente legato a Massimiliano Facchini. Il suo nome entrò nelle indagini per la strage di Ustica, quella avvenuta il 27 giugno 1980, quando fu abbattuto un DC-9 dell'Italia con 81 persone a bordo nei cieli sopra l'isola del Mediterraneo. Accadde perché questi era legato a personaggi con interessi in Libia, coinvolti in un tentato colpo di Stato sostenuto da militari egiziani contro la dittatura di Muammar Gheddafi. Nel processo che ne seguì, lo stesso Del Re, che era venuto a sapere del progetto di insurrezione nel 1979 in Germania e per il quale aveva fatto da intermediario con referenti delle istituzioni egiziane, venne condannato in contumacia. Al corrente di traffici di ricambio per aerei e di armi che chiamavano in causa anche ufficiali dell'aeronautica militare italiana, Del Re era entrato nel mirino del SIST di Padova, che lo descriveva, riporta la sentenza ordinanza del giudice istruttore Priore su Ustica, come persona di pessima condotta morale civile, con diversi precedenti e pendenze penali per vari reati. Di lui si diceva anche che fosse in collegamento con elementi della malavita comune di Veneto e Lombardia, fosse stato un attivista del Partito Radicale e avesse frequentato un circolo gay. Ma soprattutto, per il SIST, sarebbe stato un ricettatore per conto di Valerio Fioravanti, il terrorista dei NAR, condannato in via definitiva con Francesca Mambro e Luigi Ciavardini per la strage di Bologna del 1980. Inoltre, come lo stesso Del Re confermò, era stato a propria volta in contatto con l'estremista di destra Roberto Rinani e disse che i loro rapporti erano nati a inizio del 1978, quando il secondo era tesoriere locale del Partito Radicale. Attraverso di lui conobbe un gruppo composto da una dozzina di persone e di Rinani disse anche che girava sempre armato. Inoltre il neofascista, con cui ebbe legami fino ai primi mesi del 1980, vantava la protezione di un non meglio specificato capitano, forse dei carabinieri, che avrebbe fatto parte di un servizio segreto chiamato Iside. Rievocò pure un episodio dell'estate 79 avvenuto al caffè Pedrocchi di Padova, che chiama in causa di nuovo le notizie preventive della strage alla stazione, di cui qualche tempo dopo parlò dal carcere anche Luigi Presilio Vettore, che a propria volta aveva avuto interlocuzioni con ambienti libici. Nel locale veneto Rinani gli aveva confidato che di lì a qualche mese avrebbe partecipato a un'azione terroristica con uso di esplosivo a Bologna. Del Re invece negò di aver mai conosciuto Valerio Fioravanti, a meno che, disse il 15 dicembre 1990, non fosse qualcuno di quelli visti in contatto con Rinani, nel quale vi erano a volte anche dei romani. Il generale Quintino Spella ai tempi era capocentro del SIST di Padova e quando gli chiesero informazioni in merito alle note del servizio su Aldo Del Re, rispose al giudice istruttore Priore che a occuparsi di quegli accertamenti era stato il segretario Aulo Calopresi, maresciallo di pubblica sicurezza, il quale confermò di aver redatto la scheda biografica su Del Re, ma aggiunse di non averlo mai conosciuto direttamente. Per scrivere di lui si era avvalso per il 99% di informazioni già presenti negli archivi della Questura di Padova e per la parte restante da indiscrezioni raccolte tra gli uomini della squadra mobile. Si andò alla ricerca di riscontri e per questo fu sentito il dirigente della Digos di Padova che, come si legge nella sentenza ordinanza di Priore su Ustica, sosteneva che Del Re fosse noto in ambienti di polizia solo per essere un attivista radicale e per la sua frequentazione di ambienti gay. Nulla, invece, risultava dei suoi rapporti con l'estrema destra. Ulteriore smentita a Calopresi venne dal capo della squadra mobile di Padova. In base a quanto il dirigente di polizia disse alla fine del 1990, inoltre, non risultavano rapporti tra Del Re e Fioravanti. Dunque, gli appunti del servizio non potevano provenire dalla questura. Poi, a un certo punto, per il SIS della città veneta, l'interesse per Del Re andò scemando perché era divenuto, si legge nei documenti, personaggio di interesse per il servizio segreto militare, per cui per il SISMI. Insomma, rimane il mistero di come il SIS di Padova, comandato da Spella, raccolse le informazioni su Del Re, che sostenne di aver riferito le confidenze di Rinani, prima della strage, al procuratore generale di Venezia. Ciò che è più certo, invece, è che dopo le sue dichiarazioni a Priore, subì minacce come Presilio Vettore, che nel novembre del 1980 venne accoltellato nel carcere di Padova.